Sì, sì. Guardare. Hola, CQ10. C'è qualcuno sul canale 10, cambia. Avanti sul canale 10. CQ canale 10. C'è qualcuno qua? CQ 10. Go ahead. No, guarda già sta. CQ11. If you copy North Sardinia Island Italy calling. Finirà. E vai, e fini a due. E vai 55, fatti un brutto, vai. Vai, vai. Mica metto l'eco e ti insordo, non ha capito, bello becco. Sembra di propagazione, dopo, dopo. Ah, me ne vado 55 un pochino, che c'è un casino di propagazione. Coppo, coppo, attacchiamo i motori. Ma io non so potenza, che cazzo vuoi fare? Aspettami 7.300, almeno mi faccio sentire. Ma sono venuto a prenderlo. Cava, cava. Questo 30 euro non lo vuole nessuno, e allora ce lo teniamo qua appeso. Coppo. Me lo porti qua perché non posso camminare, te ne do 50, bene va. Cava cava! Ti do anche 747, cava cava! Sì, tu cazzo, più di 15 passi, non dati, oi. Cazzo, lineare non ne ho, non c'ho un cavolo, cosa vado a fare? A fare brutte figure nel 45, va. Guarda che ce ne sono due o tre su subito.it, addirittura 50 euro, cappa, 747. E va. E io. C'è uno 70 e due da 50 euro, però uno lo spedisce, magari convincendolo, boh. Ciò si hanno gli avvenduti. Ancora che sia stato un incarico. Uno già mi sarebbe interessato, almeno quando vado in SSB, un po' di potenza ce l'ho. Se no vuole già cattivarmi. Questo qui lo metto a due parti e poi gli attacchi quell'affare là. E non va neanche in saturazione quando sono due parti di ingresso. No, guarda, ti faccio subito, guarda, così sono a zero di watt della radio, così sono al massimo, vedi che non satura, capo. Al massimo della radio, bisogna vedere quante batterie hai dato al massimo. 15, questo da 15 e 35 di modulati. Se non satura. Non l'ho visto, guardate il segnale, attenuami, no, così è a zero, attenuami, se ne accorgerà il segnale. Sai che abbasso l'eco, così sono a zero, e così sono al massimo, vedi? Ora, anzi, esce pure più forte, capo! Lì c'è quel 746. Aspetta, devo cambiare scala, che c'avevo il rosmetro coperto ancora. Coppa! Cocco, ma è già... Station Alpha X-Ray from Central Germany calling. Va bene, ne vado sul 45, signori, dai, c'è qualcosina lì, ciao, ciao, a dopo. Ciao, ciao. Direttore, c'era qua? ho detto, Cocomaniga. Chi sei, Marco? Sì, io. Ecco come, ho la voce, tutti i figuri andano qua. Gli ho detto, più di 15 passi non so. Ma stai mangiando? Una caramella. No, perché non ti capivo, sembrava... Oh, non ti capivo. Ecco, break. Attenzione, break, sono le 10. Ma chi c'è qua? Sono tu. Eia. Eia, buongiorno, ascoltate il Sud Italia, provincia Matera. Avanti la provincia di Matera, qua è la città di Sassari, in nord Sardegna, che ti cordializza. Quella Sassari, buongiorno, Daniele da parte mia qua, solo di radio, solo radio, i soliti 10 watt della radio, in QSO con Scanzano Ionico siamo, ok, io sono Daniele, vai. Ciappa, Marco da questa parte, la radio è eccellente, nel termine giusto, eccellente. C'è un po' di queste pipero, il segnale arriva fino a 9.10, poi cala, poi risale. Avanti ancora. Bene, bene, QSL, Marco. Ok, ti passo il mio compaesano qua, ok? Marco, l'altro corrispondente. Vai Marco per gli amici in Sassari. Ok, bene, buongiorno amici in Sassari. Da parte mia Marco qui, stesso QTH di Daniele, città è Scanzano Ionico, la provincia è Matera. Mi direte come mi ascoltate, radio con 3 watt e mezz'onda. Giappa, allora, il segnale variabile da 5 a 8, da 5 a 8, la modulazione è altrettanto buona, vai se è copiato. Sì, positivo, sì, effettivamente c'è un po' di questo da 4 a 8, 5, c'è un po' di USB per via la propagazione va e viene. Va benissimo, va benissimo. Vai Daniele, vediamo un po'. Sì, questo è dell'altro amico della Sardegna pure. Fai venire avanti anche l'altro corrispondente, prego. Riprendo io, Natalino Alfa 1 dalla città di Sassari, nord della Sardegna, non so se come mi ascoltate in quelle coordinate, dai. Volevo sapere quello come mi ascoltavate in quelle coordinate. Ok, riprendo. Natalino, bene, buongiorno, ascoltato. Allora, per quanto riguarda il segnale c'è il solito QSB, ma la modulazione è 5, ok? Anche per l'amico Marco lo stesso, segnale radio 5 di modulazione, nessun problema. Vai Marco per Natalino. Ok, perfetto Natalino, io ti ascolto bene, il QSB che fa da 4 a 7, ho la modulazione è ottima. Marco, sempre nello stesso QTH, Daniele. Apparato Intec 500S, 3 watt in antenna, Midland mezz'onda e microfono Sarno più 3B. Vai Natalino, dimmi un po' come mi hai ascoltato. È il solito QSB dovuto anche alla propagazione che sale e scende. Le mie condizioni di lavoro sono un Anitone 5555 e un'antenna Game Master 5 ottavi d'onda. Ok, la potenza è la potenza della radio, non ho niente attaccato. Ok, avanti ancora a te. Sì, ok, Natalino, una curiosità, l'Eniton, il microfono non è originale, giusto? C'hai un microfono diverso, giusto? Confermo, ho un MB più 4 della ZG. Ah, ok, no, conosco l'apparato, però mi sembrava strano che una M uscisse così bene, no? Una bella modulazione, bella amplificata, mi piace, è bella, bella, ottima la modulazione. Allora, rilancio per allora Marco il tuo compagno, prego. Sì, capo. Allora, le condizioni di lavoro mie sono un Superstar 3009 con ZGMB più 5 e un'antenna Energy 5 ottavi, Energy 5 ottavi e al massimo una cinquantina di watt in antenna. ok, vai e riprendi se hai copiato. Ok, perfetto. Sì, Energy 5 ottavi, copiato il tutto, Superstar MP più 4, copiato il tutto. Sì, io l'antenna, diciamo che sarebbe però la mezz'onda della Midland. Mezz'onda Midland, in antenna c'erano sino a 3 watt in antenna. Ma c'è sempre il solito USB che va e viene da 3 a 7. La modulazione è veramente ottima, ottima la modulazione. Bene, rilancio per Daniele, il mio compaesano. Prego Daniele. Ok, ok Marco. Bene, allora io voglio fare una prova, voglio un attimo collegare un piccolo amplificatore per capire se si toglie questo USB, ok? Allora, eccoci qua, in onda. Tolto l'amplificatore, acceso l'amplificatore, le condizioni sono Galaxy Saturn Turner più 3 e uno ZAGI B300P della ZAGI, ok? Un amplificatore B300P. L'antenna è una Sirio Blizzard 2007. Ok, vai Marco da Sassari, anzi Natalino per te il cambio, prego. Ottimo, col B300 stai andando alla grande, ti ha tolto anche il QSB. K, sì K, confermo, qua il segnale è salito tantissimo, è arrivato a un 9 più 15, peraltro abbastanza costante. Ok Marco, QSL, dai, bene, bene, bene, ho fatto giusto questa prova per vedere... Questo po' di potenza serve a qualcosina allora, dai, giusto per far rimanere costante il segnale. Ok, vai Marco Mare Caribo, per te cambio. Ok, perfetto. Allora, per gli amici della Sardegna, sia Natalino che Marco, ho acceso anche io un piccolo, ma veramente piccolo vignaretto, un CTE 737 che eroga insomma una potenza di appena 50 watt, ma non so neanche 50 watt. Mi direte se è cambiato qualcosa, se elimina un po' la parte del QSB. Vai Marco Sardegna, prego. Sì, ha migliorato. Allora, il QSB va bene, un po' presente, però il segnale tuo ha incrementato, arrivi fino a 9, ho registrato il massimo 9 più 5, quindi il segnale è migliorato. Se volete vi faccio un rapido passaggio, un attimino solo, guardate qua il segnale così attaccato, e così sono 4 watt reali, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, e così sono, ripeto, circa 50 watt, senza picchi di modulazione eccessivi, ecco. Va bene, riprendi Marco, poi mi dirai quando, da quanto hai la mezz'onda sul tetto, K. Ok, perfetto. Sì, allora, la differenza senza lineare c'è, se scende il segnale va da 4 a 2, 4 a 2, mentre con il lineare è 4 il picco negativo e 8 il picco positivo, diciamo. E quindi la differenza si vede con il picco lineare. E la mia mezz'onda, diciamo, salta dal tetto per un lato è circa 3 metri e poi l'altro lato, diciamo, 180 gradi vedono 3 metri, diciamo, e 180 gradi ne vedono circa 25-30, diciamo, annessa sul bordo del Torino e poi da una parte c'è il, diciamo, ci sono 25-30 metri, dall'altra ce ne sono circa 3. Di nuovo per te Marco. K, no, intendevo, da quanti anni ce l'hai sopra l'antenna? Ti spiego, io quando ho preso questa antenna, essendo più sottile, essendoci qua il maestrale molto forte a momenti, credevo che non sarebbe durata più di 2 anni, 3 massimo, invece ha compiuto questo mese 9 anni, ce l'ho su da 9 anni, non ha problemi di infiltrazioni d'acqua perché abbiamo stagnato col vulcanizzante tutto quello che potevamo stagnare e si sta rivelando, diciamo, il giusto. Naturalmente non è paragonabile a una Mantova, è ovvio, però si è abbondantemente ripagata. Cambio, vai. Bene, ok. Sì, no, io ce l'ho da... sarà un annetto qui sopra, ma io l'ho preso perché viene qui il mio compaesano, ce n'è uno uguale che non mi ricordo neanche da quanti anni ce l'ha montata e ancora tutt'oggi bene. Quindi io ripasso per Daniele, il mio compaesano, con lui ti spiegherà meglio da quanti anni ce l'ha e cosa ha passato quell'antenna. Vai Daniele. Ok, poi rimettiamo subito a Natalino. Bene, Marco, allora l'antenna che c'ho, questa mezz'onda, io ce l'ho da oltre 10 anni. Se non, no, di più, una ventina d'anni che ce l'ho. Allora, subito, trombe d'aria, vento di tramontana, che qui la tramontana da noi è molto molto forte. Lo scirocco dal mare, perché noi siamo un paese sul mare, quindi quando tiro lo scirocco dal mare fa paura. Ed è dritta come una spada, dopo 20 anni è dritta come una spada. Per fortuna io l'ho serrata solo con un po' di nastro isolante vicino alle viti di giunzione sulla bacchetta e basta, non ho messo né silicone, non ho messo niente. Per fortuna infiltrazione di acqua, queste cose qua, o sono stato fortunato io, non ne ho avuto. Problemi di taratura zero, è abbastanza larga di banda pure come taratura, diciamo 80 canali li riesco a portare tranquillamente, quasi 80 canali con da 1.1 a 1.4 massimo, quindi va molto molto bene, mi trovo abbastanza bene. Ok Marco, vai per te e poi giri per Natalino. Cappa, sì. Sì, io l'avevo montata nel 2014, a maggio, e nonostante tutte le previsioni infauste, sta durando abbastanza. Lo dico questo perché molte persone che l'hanno avuta anche qui a Sassari hanno avuto problemi o di infiltrazioni di acqua nella bobina, nell'astuccio in plastica che tiene la bobina, oppure altri problemi di tipo la rottura della lamella che va dalla bobina allo stilo, e insomma altri vari problemi. Io i punti che ho stagnato e sono praticamente i giunti tra uno stilo e l'altro, poi ho stagnato tra la bobina e lo stilo, e poi il PL col vulcanizzante, nient'altro. I punti sensibili sono quelli. Insomma, devo dire che si è ripagata come antenna e sta andando, spero che duri. I radiali tutti a posto, non è caduto nessun radiale, quindi ok, è andata oltre le mie previsioni, ecco. Io rilancio Natalino, vai per gli amici. Buongiorno Reggio Calabria. Un attimo, un amico, e riprendo io qua Natalino Alfa 1 dalla città di Sassari. Ce l'ho avuta anche io l'antenna che a Marco e ho avuto problemi, mi si riempiva la bobina d'acqua quando pioveva e non potevo modulare in quanto salivano le stazionarie a 2, quindi era impossibile poter modulare. Va bene, rilancio ancora a Marco, l'amico di Matera. Avanti ancora a te, c'è qualcuno sotto che ha chiamato poco fa. Sì, sì, capo, ho sentito qualcuno che voleva entrare. Io rilancio l'amico di Matera, lo manda avanti lui, forse è della stessa città anche. Avanti. No, sempre io, Daniele sono. Volevo sapere, Natalì, ma l'antenna tua che marchio c'ha? Midland o Sirio? No, cos'era quell'altro? Marco, come facevano? Mi sa la Sirio, giusto? Che marca l'antenna? Perché là c'erano due modelli, sia la Midland che la Sirio. No, non ce l'ho più adesso, mi sa che era Midland la mia. Adesso ho la Game Master, capito? Ho la Game Master adesso. Ok. Sì, no, perché io pure ho preso la Midland all'epoca, quando la comprai, trovai questa Midland, ok? Allora, chi c'ha l'altro modello che non c'è la Midland, anche magari in zona nostra qua, c'è un altro amico che l'ha comprata, ha preso una 5 ottavi, però non è della Midland, è della Sirio o della Lem, non mi ricordo adesso di preciso che marca la costruiva. E lui c'ha questo problema che gli entra l'acqua, ok? quindi quel modello lì entrava l'acqua, noi che la sponsorizzava la Midland, per fortuna acqua non è. Comunque tutto qua, vai Marco. Sì, ho registrato un brecco, non so se sia locale, io lo mando avanti, avanti il brecco. Avanti il brecco. Marco, noi iniziamo a salutarti perché la propagazione si sta abbassando moltissimo, ok? Ci ha fatto piacere ascoltarvi, buona domenica a voi e cuore familiare, sia a Natalino che a Marco, e magari ci ascoltiamo al prossimo giro, ok? Buon tutto e alla prossima, grazie del piccolo QSO. Vai Marco, per te. Pronto, pronto, pronto. Ok dai, 73 a tutti e due gli amici di Matera. Saluti dalla Sardegna, buona domenica, dai, avanti Marco per i saluti. Diversamente, prima che vi perdiamo del pronto, pronto, che da parte mia è una buona continuazione di domenica. Ciao Natalino. Giappa 7351, un saluto alla città di Matera e ci sentiamo alla prossima, ok? Buona domenica, buon tutto, ciao. Ciao, ciao. Marco, ti ho mandato a spostarci di canale, dai, giusto per non creare... No, andiamo sull'otto, no, andiamo sull'otto, dai. Caspita Natalino, hai visto che segnaloni? Io purtroppo non ho niente, capito? Sono solo i batti dell'apparecchio e boh. Però la propagazione aiuta, diciamo così. Solo che andava e tornava, e quello, e il QSB lo provocava la propagazione. Vedi, sono stati anche educati che se ne sono andati su un altro canale quando, per non disturbare a noi. Sì, io devo ancora far colazione. Ho dormito, ho scoperto, mi sono svegliato con la voce afona. Porca miseria. Ok, provvederemo. Sì, infatti. Anche mia moglie è messa male. Tutto raffreddato, sta messa male perché ha preso un colpo d'aria. Boh. Che vuoi che ti dica? Comunque dice che amplifica un bel questo microfono. Pronto, prova. Registrata la prova, adesso andiamo avanti. Sì, sì, ha un'eccellente modulazione. Diciamo che rispetto alla tua modulazione si tira dietro troppa roba di TV, radio, quello che è di fondo. Cioè non spinge eccessivamente la tua voce, ma ti tira dietro anche la TV, la radio, tutto quello che c'è. Ok, io col tuo permesso Natali mando avanti chi ha chiamato, avanti, buonasera, buongiorno cioè. Ciao, buongiorno Sassari, qui Reggio Calabria, buongiorno. Copiato l'isola? Reggio Calabria, qui Reggio Calabria. Ah, buongiorno Reggio Calabria, una modulazione molto molto forte, a momenti quasi quasi troppo forte. Il segnale oscillante è intorno a 9, 9 qualcosa. Vai, se è copiato Marco da Sassari. Attento Reggio Calabria, si sa ancora? Sì, USL, Marco purtroppo non lo copio, non lo copio completamente. È strano Natalino, sento varie modulazioni ma non capisco chi è l'uno e chi è l'altro, forse loro non si sentono tra loro, ecco, tra nord e sud. Ecco, come succede, come tra noi e Cagliari, capito, non si sentono e si sovrammodulano. Comunque il passaggio che ha fatto l'amico di Reggio Calabria è arrivato fortissimo qua poco fa. Purtroppo la propagazione è quella che è oggi, c'è QSB. Vabbè, ci sarà, come dire, sì, c'è fading del segnale QSB, però anche segnaloni, arrivano i segnaloni, devi sentire sui canali alti in banda laterale cosa non c'è, fai tutta Italia anche con i 30 watt dell'apparato, e non si sgancia il mic, cacchio. Sì, lo so, non ho visto se c'era qualche italiano in banda laterale poco fa, c'era casino, me ne sono andato, troppo casotto c'era, molto bailame, quindi ho preferito andarmene. E non solo, c'erano anche i portantisti. Sui francesi mettevano una portante, su un canale italiano mettevano una portante con una selettiva peraltro uguale a quella della polizia, identica. Sono riusciti a ricostruire il bip, il Roger Bip, come la selettiva, capito? Ho capito, sì, ho visto, c'erano le portantisti sopra i francesi, me ne sono andato perché c'era troppo bailame, poi non so dove erano gli italiani per poter parlare un po'. Guarda, bastava fare spazzolata entro i 40 canali, mi pare che gli italiani fossero sul canale 33 o 34, una cosa del genere, sì, con segnali buoni. Poi vabbè, c'erano anche gli spagnoli, praticamente non capivi nell'uno e nell'altro, poi è comparsa questa portante, allora ho suonato sui canali alti, ho sentito altre comunicazioni, anche europee, francesi e quant'altro. Va bene, io vado a pigliarmi un po' di caffè in dovena, se ne ho bisogno, ok? Se ci sei a dopo, Natalì. Ieri non c'era un'anima in radio, tutto il giorno. Sì, una o due volte ti ho chiamato, non sei entrato. Ieri? Ieri non so, io finché quando ero qua ho provato a chiamare, cioè a premere la portante, ma non. Invece l'altro ieri stavo abbastanza male e proprio non ho sceso. Brecco per un controllo dal centro Italia. 5-9 per te, 5-9, avanti Reggio Calabria. Dal centro Italia. Dalla città di Pesaro, dal centro Italia, dai. Con i super salutoni a te, l'amico. E anche tu mi arrivi molto bene, dai, 7-5. Perfetto. Arrivi a picchi di Santiago 8 qua, Radio 5, l'amico del centro Italia, qui è la stazione Natalino Alfa 1 da Sassari, nord della Sardegna. Ok, avanti ancora a te, l'amico del centro Italia. Sì, Gappa, è operatore Antonio, con le scuse, Natalino, è operatore Antonio dal centro Italia, dai. Niente, ho sentito che arrivavi molto bene, capito? Ho provato a fare un saluto, dai. Comunque, te arrivi molto bene, l'amico lì, qualche punto in meno, però vi sento bene entrambi, dai. Cassa. E io ho i watt dell'apparato, non ho niente attaccato qua, no. Non ne ho, quindi sono i watt dell'apparato, praticamente io ho un Anitone 5555 e una 5 ottavi d'onda Gain Master, i watt sono quelli dell'apparato, saranno una quindicina, ok, non è da di più, avanti ancora a te, Antonio. Sì, Gappa, allora ti faccio i miei complimenti, dai. Va bene, signori, mi ha fatto piacere ascoltarvi, una stretta di mano e l'amico, e ci sentiamo, grazie del controllo e buon tutto. A te, Natalino. QSL, riprendo ancora io, 73, a te e a tutto il centro Italia, dalla Sardegna, salutoni e buona domenica, buon proseguo. Insomma, non ti puoi lamentare, Natalino. cosa mi lame? C'ho pochi batti qua, un linearone, bighere, se vuoi fare qualcosa, non mi permetto neanche a farmi qualche dieta nei canali alti perché mi fanno a beffi. Sento un brecco con una modulazione un pochino bassa, avanti il brecco, avanti. Non riesco a capirlo, ho capito la tensione Sardegna e però nient'altro. La modulazione è un po' bassina, puoi aumentarla, puoi fare qualcosa, cambio. Attenzione, Sardegna c'è troppi nodi. Cappa Nord Italia, puoi aumentare la modulazione? Si è arrivato forte per un attimo, si è arrivato 8,5 per un attimo. La modulazione è un po' risicata, però se il segnale migliora ti copio. Qui è Marco dalla città di Sassari. Avanti qua Reggio Emilia. Avanti Brecco. È entrato in locale, Radio 1, inascoltabile. Non capisco il parlato. È a tutti i timbri, quando arrivano così che sono incomprensibili, cosa... Anche io era incomprensibile per il sottoscritto. Ma quello è un segnale locale però, Natali, questo 9-10 quant'è? Mi sembrava un segnale locale, troppo costante il segnale, capito? Però non ha radio, proprio non ha radio. Adesso stavo cercando se c'era qualcuno di Cagliari. No, qua è Sassari, nord della Sardegna, K. Attenzione, Natalino Alfa 1, non so se mi stai ascoltando. La radio tua è molto bassa. Ti ho ascoltato per un attimo, l'amico. Adesso ho capito solo Sardegna. Sì, la modulazione è troppo bassa. Anch'io non riesco a capire. Ecco la Ferrara. Sui 40 positivi sui canali alti lì, un USB e sembra di essere in 40 metri. Lo credo. Trento, uno a Trento che chiamava non so chi, arrivava chiarissimo come se fosse un segnale locale, ecco. Oh, questo mic sta cominciando a scocciare, non riesco a sganciare la portante. Perché lo premi verso destra? No, ma noi non ci siamo solo amici. Quindi chi ci blocca deve essere. È anche vero che ho questa specie di tappetino in gomma, quelli con le cellette a rilievo, antiscivolo, magari riesce a toccare sotto, non lo fa bene staccare. Vediamo. Vedi? C'è stato un break. Brecco sul 10, 1, 2, 3, prova, 1, 2, 3, prova. Avanti la prova sul 10. Misba. Attenzione sul 10, c'è qualcuno. all'ascolto? Hola, hola. Sì, avanti. Sì, a dove sei, amico? Buongiorno, dai, benvenuto. Io sono il nord Sardegna, dai. Ma in Cagliari di sì. Ma va, come stai per dire? Vai il passaggio più veloce. Sempre in basso. Io sono nord Sardegna. Avanti, prego. Riccardo, la città di Sardegna, avanti contro presenza. Sì, avete sentito Riccardo, dai, Leone è primo dalla città di Sardegna, dai. Sì, Leone, io ti dicevo molto bene, ecco, mi copi. Hanno preso, vai, piede, dai, non c'è con te. Chi è questo? Sto provando, sto PTT. Scusa, eh? È talmente minimo il tratto, entra di un millimetro, quasi, per sganciare. Ho capito. Dopo li metto nei punti di dove sfrega una micro goccia di olio al silicone. Sì, al silicone, in modo che non rovina le plastiche e lo fa scorrere meglio anche. Che sai, questo per quanto poco usato, però insomma, d'altronde ZG è roba un po' economica, dai. Qui lo vedi? Accidenti, ora. Eia, allora premo, non blocco la portante, dai. Tanto non devo fare roba a mano libera. Non devo scrivere. Hai notato niente nella modulazione, va bene? Poi ti dico perché. Sì che va bene. Guarda amico, mi ascolti? Sì, registrato. Allora, Natalino, allora ho messo il tono a 3, mentre gli altri giorni lo usavo a 4, ho messo il tono a 3 per farlo appena appena più caldo. L'importante è non sia cupo. Adesso mando avanti l'amico che ha detto: mi ascolti, avanti, avanti per la Sardegna. Aspetta che non si, mi si è bloccato. Tappa, operatore Massimo, nominativo Delta Mike, non ho copiato la città, puoi ripetere? Purtroppo varie modulazioni di fondo, non sono riuscito a copiare. Vediamo chi altro c'è qua, vediamo chi c'è sul 10, chi copia Sassari Nord Sardegna, avanti. K Giacomo Alberobello, segnale 5, la propagazione è calata parecchio, come se si fosse chiusa. Vediamo cosa possiamo fare. Avanti l'amico che aveva chiamato, Mike Delta, com'era? No, li ho persi francamente, da Tani. Qua è come se si fosse chiusa, prima c'erano segnaloni, adesso non più. Stanno arrivando segnali molto molto bassi, veramente troppo bassi. E vabbè, qui va e viene, no? Sappiamo. Sì, infatti, quando li sentiamo bene li rispondiamo. Non conviene manco risponderli se non li ascolti in modo comprensibile. Però il bello è anche quello, riuscire a comunicare con stazioni al limite dell'udibilità. Cioè, comodo averli 9 o 9 più. Questa è proprio la stazione bassa limite dell'udibilità che ti dà soddisfazione. Capito? Che sei al limite ma riesci a copiarla. Sì, comprensibili, anche 7, sì. L'importante è che la radio sia comprensibile, se no con chi parla con muro. Io, in locale non c'è nessun altro, no? Tutti al mare, mia, mostrare le chiappe chiare. Io non sono potuto andare, c'è mia moglie che non sta bene, quindi non ci sono andato. Poi stavo cucinando, stavo facendo il sugo, poi ho fatto le fettine di capocollo alla pizzaiola, m'ho fatto per pranzo. Capocollo alla pizzaiola, mamma di turchi, buono la pizzaiola, buono buono buono. Io ho fatto il sugo a farce, no, per quelli lì, perché ho fatto il ragù per farmi gli gnocchi al ragù, e poi ho fatto un po' di sugo per fare quelli, non sappiamo ancora, cioè l'ha dato un fotologo che mi aspetta, per fare quelle fettine di capocollo alla pizzaiola. D'accordo, sono sicuro. Devono che... essere una bomba. Eh sì, guarda che già come ha detto pizzaiola, ha detto sicuramente è buonissimo di K. Io invece l'altro ieri mi sono svegliato che avevo proprio al risveglio malessere generale, una leggera nausea e poi come quelli doloretti tipo puntura alle ossa delle gambe, delle braccia, come se fosse un'infreddatura. Però non era infreddatura, perché è passato troppo repentinamente. E ieri avevo la testa in brodo, come un dopo sbornia. E oggi niente, oggi sto bene. Tocchiamo ferro. Non si sa mai. Oh, non stacca la portante. Apri e guarda cos'è che tocca, maledizione. E quello è un microfono di lusso per fare. Eia. Ti ho detto, però devo premere senza bloccarlo, però mi viene la tentazione di bloccare. E d'altronde la comodità della macchina da tavolo è quella. Aspetta, se faccio così, no, non lo fa. Perché ho questa gomma a rilievo, magari è quella mica la fa patinare. Va bene, non è un problema. Spero che la batteria stia durando. Il microfono a 7, Natale, il microfono a 7, però sullo smitter non vedo molti picchi di modulazione. Cosa ne dici tu? Secondo me va bene, io ce l'ho a 5, l'ho messo a 5 per parlare con quelli là, perché prima lo tenevo con 2 watt e a 2 il microfono. Tappa, ho anche paura di alzare di più, non sia che parte il modulatore, ci mancherebbe. Ecco qua, ecco lo scorrimento, vedi? Sì, è roba da poco comunque. Così riesco a sganciare. Ok, dopo già lo... gli do una spruzzata. Sì, sento la gomma ruvida che È vero, Natalì, sento la gomma che sotto fa resistenza. Già, è quel tappetino, quello con le scellette a rilievo, è quello lì che fa spessore, capito? Purtroppo l'ho messo, sennò qua sul bracciolo del divano scivola, mi cadrebbe il mic, come già mi è caduto, per fortuna non ha toccato terra, cappa. Va bene. Io gli ho dovuto mettere lo smalto delle unghie, perché mi si mollava dove è attaccata la capsula, no? Quello stilo lì mi si mollava sempre del microfono. Allora ho preso, nelle viti gli ho messo lo smalto delle donne per le unghie e ho stretto. Non si è più mollato. Ehi, ha funzionato. Adesso vediamo senza tappetino se ve lo sganciare. Eh no, è un po' viziatello, sì, devo lubrificarlo, magari c'è andata anche polvere, mi devo aiutare un po' così, però riesco a sganciare lo stesso. Attenzione mica, lo smalto delle unghie non ti finisca sulle unghie pure mi, si inizia così, capito, poi le parrucche, il trucco. Lo so, infatti sono stato attento, non si sa mai. Ma d'altronde se uno non prova, uno prova, magari gli piace, allora che ne so, buono per lui, ma se non provi non lo sai se ti piace, anch'io devo provare. E adesso me lo faccio mettere da mia moglie, è vero, così ti dico se sono diventato fruccio o no. Cos'è, ridendo il pezzo del daffia? Guarda, se noi diventiamo ricchioni finiamo anche in TV, nel mondo dello spettacolo, capito? Tanto se non sei ricchione non fai niente adesso. No, cazzo, devi essere a prescindere gay, se no non fai nulla, no? Oi. Va bene, sì, la propagazione si è chiusa comunque. Prima qua era un continuo di chiamate, adesso si è un po' calmata. Vabbè, un po' di riposo per le orecchie anche, dai. Chi c'è sul 10 da Sassari? Tutti morti? Tutti al mare? Capito, qua sono tutti ricchi, ambienti, sono in giro col piroscafo, chi con l'aereo personale, privato, bubu. E allora, io che dovevo andare a prendermi un po' di sole non ci sono potuto andare oggi, ve lo immagino. E vabbè, mi rifarò col pranzo, ho invitato mio di rifettaio e così almeno si mangiava un po' di quegli gnocchi al ragù e le fettine alla pizzaiola di brutto. Eia, poi in compagnia vi divertite anche, dai, è meno monotona la giornata. Ascolta, sempre state usando quelle cose lì? No, perché quello che aveva il dirimpettaio non accende, in poche parole, e quindi non ne stiamo più usando, tanto basta che ci affacciamo, era comodo, io non ho preso quelli con sono perché quelli non puoi andare con mezzo vasto, capito? Eia, guarda, io addirittura avevo preso, peccato per quel portatile, vabbè, ma ce ne sono tanti, a voglia, io avevo preso questi, aspetta che marca era, ma che siano Anitone, aspetta che guardo, arrivo subito, Cazzarola, non stacca, Chi è che fischia? Avanti chi fischia sul 10. Ecco qua, allora. Dimmi. Allora, io ho preso dalla Cina, da AliExpress, questi Red Avis. Dovrebbero avere anche il marchio CE, vero? Sì, il vero CE. Cioè non China Export, ma il vero CE. Allora, ci sono di vari colori, sono sempre 500 mW sui 446, sono di una semplicità estrema, hanno una modulazione favolosa, una ricezione altrettanto favolosa, ci sono vari colori, blu, rosa, celeste, viola, giallo, gli unici passabili sono il nero e il giallo. Il giallo l'ho preso per mamma mia, l'avevo preso, e costavano da AliExpress tipo 15,02 euro o meno. Sì, massimo 13 euro, 15 euro, due pezzi. Addirittura potevi comprare un pezzo singolo a 9,90 euro. Te le immagini? Ci metti delle stilo, ti dico quante, che poi questo è il clone del Brondi, 4 mini stilo, è il clone del Brondi, del primo Brondi che era uscito, di cui non ricordo il nome. Comunque ti mando una foto per fartelo capire meglio. Non solo, ma puoi ordinare l'auricolarino, microfono auricolarino loro, capito? Ha una cifra veramente ridicola. Cacchio. Ti conviene attaccare il microfono normale e controllare perché, per quale motivo ti fa quel difetto lì, quel... molto preciso. Quel mic. Però... aspetta che adesso io lo tolgo dalla... ce l'ho... per caso alternata fa, senti bene? Lo sto tenendo in mano, è dalla base. Adesso vedi, così viene bene. Vedi? Però sento una leggera resistenza, sì. E un po' di polvere, un po' di... adesso non lo sto sganciando io, eh. E mi spasso un po' nei perni. Un po' di olio a silicone, adesso lo cerco. Ah, ti mando la foto di quegli apparecchi là. Si hanno una potenza minima, minima, una portata altrettanto minima, quindi per comunicazione a brevissimo raggio vanno bene. Ehi, perché non posso, già lo sai, no? Se no mi sentono, quindi per non sentirmi devo usare qui. Ragazzi, scusate. Forse ci siamo, eh? Allora, blocco, poi sblocco con un dito. Guarda. Perfetto, sì, olio spray al silicone. Sui cardini del tasto, no? Sui cardini praticamente. Guarda, con un dito, sfioro. Sì, proprio funziona bene. Sì, speriamo non sia andato l'olio al silicone lì. Dove c'è il circuito, ma ho fatto piano piano, non ci sono rumori strani, no? Vedi un po', 1, 2, 3, 4, 5. No, la radio è di lusso. Vedi, adesso vedi, proprio va con un dito, va avanti e indietro, un bijou, ecco, tutto qua, dai, un po' di polvere è andata sicuramente. Evidentemente sì. Speriamo che riesca a aggiustarmi da quel 3009, cazzo, quanto mi dispiace, nuovo. Ecco qua, sono andato alla ricerca dello smartphone, adesso ti documento la confezione di quelli là. Questi vanno bene anche quando Concetta fa commissioni brevi, no? Senza dover stare ogni volta a comporre il numero di telefono, questi non devi temere nulla. Nascono così, non li puoi modificare, non puoi fare niente, sono 8 watt, mezzo watt, sì, 8 watt, 8 canali e mezzo watt. Infatti, con quelli va bene. Mi saluti Francesco. Solo che non andavano bene, si scaricavano subito, ma ce l'erano quelli lì, duri gatto, come la morte, la portante, si stancavano la mano addirittura. Adesso ti mando la foto, Qui sono piccolini questi, praticamente il Brondi, il primo Brondi PMR che ho avuto in assoluto, l'MT, e vabbè, il primo in assoluto che avevo comprato era uguale a questo, sì, un po' più, il colore un po' più bello, mando foto, dai. Scusa che sto pulendo l'eccesso di silicone. e devo tenere premuto. Ecco qua. Bene, bene, bene, bene. Vabbè, vado ad accendere il fornello per scaldare l'acqua per la pasta. Eia, eia, dai, casomai che ora è? Mezzogiorno. Sì, per me è presto cucinare ancora. Vabbè, fai pure, dai. Nel caso ci sentiamo stasera o domani, quello che capita. Ciao Natali, ciao. Ciao Marco. Attenzione amici, c'è qualcuno? Prima! Adesso, io sto parlando di adesso. Ciao Marco. Hai acceso adesso Gianni? Sì, ho acceso adesso perché stavo facendo il sugo e preparando la roba da mangiare. Natalino è andato adesso a cucinare. Gianni, c'era una propagazione strepitosa, sembrava di essere in 40 metri. Tutta Italia, qua entrava una raffica, Messina, Coso, Pesaro, di tutto c'era. Ma segnaloni oltre il 9, 9.5, 9.10, 9.15, da me, che da te sarebbero 9.20, 9.25. Cazzo, ma la son persa, lo so, però siccome c'ho gente a casa a pranzo e dovevo farlo un po' prima, dai. Poi ieri notte sono andato a vedere le vibrazioni. Dove erano? A Porto Torres? K. No, vabbè, io così non... c'è una persona che non posso lasciare, poi ero convalescente ieri, sono stato poco bene l'altro ieri. Sì, qua eravamo in AM e segnaloni e segnaloni, ma in tutti i canali, in AM, in SSB, un po' di tutto. Adesso, allora, praticamente per l'Italia si sta chiudendo, sono spariti tutti. Per esempio sul 28 c'era gente lo stesso da Messina, mi pare. Ed erano segnaloni 9 oltre il 9 e adesso sono in mezzo al QRM, proprio si è chiusa la propagazione, però probabile che, cioè probabile, chissà che non riprenda anche nel pomeriggio o nella sera. Notevole, dai, sentivano bene anche Natalino, amico, la potenza dell'apparato suo. Infatti quando c'è propagazione non c'è bisogno di vacca. L'interessante è che uno esca bene, poi anche se c'ha pochi watt c'è lo stesso. Io per sicurezza naturalmente l'aiutino ce l'ho, così riesco a passare almeno, sai, le sovraondulazioni, gli altri che chiamano eccetera. Mi si bloccava un po', non riuscivo a sganciare il PTT dell'MB+5, era un po' ruvidetto. Gli ho spruzzato sui cardini un po' di spray al silicone e su un bijou, con un dito lo sfiori e stacca. Ma adesso si è attaccato? Adesso, aspetta. Sì, vedo la luce rossa, aspetta. Che non c'è bisogno. Se no si consuma corrente, sì. Vai da 9.30 a 9.40. Vabbè, un po' da tarare lo smitter forse lì. Un po' troppo forte, non è. Va oltre. Vabbè, già capito. No, lo smitter qua è giusto. Con miseri 3 watt arrivo a 9.30, buono sapersi. Ah, ma tu sei lo smitter, ho capito, sì, fine. Cappa. Stavo pensando al baracchino o l'altro, baracchini, no. Se avessi avuto il 4.40. Marco, parla, ciao Natali. Eia, vedi un po'? Sono sul filtro, quindi sono 3 watt, dai, vedi 3 watt. Ebbè Natà, avviata la cucina. Eia. Quanto scorre bene questo PTT, veramente va bene per i QSO, questo spray al silicone, per i QSO, tutti i QSO, non solo quelli parlati. Sì, ciao Gianni. Poco fa ti stava difettando, ma vedi, dovevi farlo subito, magari mettevi il microfono normale e guardavi per quale motivo ti faceva quel difetto. Ah, come scorre bene, guarda, va avanti e indietro, su e giù.